Prova 2. Ascolterai un'intervista. Ascolta attentamente e poi svolgi l'attività indicata. Migliaia di persone che l'applaudono e lei che li ringrazia quasi incredulo. Possibile che non sia ancora assuefatto al successo? Si vede, eh? Quando il pubblico è così tanto, o ti caccia nei primi 5 minuti o lo conquisti e te lo porti fino alla fine. Ma quello che mi commuove davvero è accorgermi che mi viene riconosciuto un po' di lavoro fatto per la mia città. Con i suoi spettacoli? Io questo so fare. Mica mi posso occupare di fogne. Mi vanto però di aver aperto nel corso degli anni ben 3 teatri, mentre molti venivano chiusi. La scommessa è stata quella di costruirmi un pubblico mio e poi accompagnarlo ad apprezzare anche altri generi, anche i più difficili. Basta farlo con leggerezza, senza atteggiamenti elitari. Aiutiamo la cultura, dicono tutti. Cominciamola a fa, dico io. Roma ce n'ha proprio bisogno. E come si partecipa nella città che sta descrivendo? Ha qualche ricetta? Guardi, 30 anni fa, un assessore geniale, Renato Nicolini, inventò l'estate romana, amalgamando nella città barocca interessi e culture diverse. Dopo di lui tutto si è sciolto, si va di qua e di là senza un coordinamento, però le invenzioni vanno adeguate ai tempi. Senza fare paragoni, posso parlare del mio Globe? Certo, è il bel teatro shakespeariano che hai ideato con Veltroni. Veramente, l'idea è stata mia. Io gliel'ho proposta quando, nel 2003, cercava un modo per celebrare i 100 anni di Villa Borghese. Lui, che è un grande comunicatore, l'ha presa al volo e abbiamo fatto questo teatro, dove ogni estate migliaia di cittadini vedono ottimi spettacoli a prezzi bassi, grazie anche ai finanziamenti del comune. Adesso però sta rischiando di brutto. Con l'aria che tira, dicono, vedremo in seguito se ci sono soldi. Io ho aperto ugualmente la stagione. Speriamo che venga tanto pubblico e non ci si rimetta troppo. Nella sua autobiografia, lei racconta quasi con orgoglio le condizioni modeste della sua famiglia di origine. Viene da chiederle se queste sono state un problema o uno stimolo al successo. Nessuna delle due cose. Mio padre, che faceva un mestiere umile e mi aveva portato fino all'università, voleva che mi laureassi, ma cantando nei night guadagnavo già più di lui. Poi il teatro mi ha preso e i miei hanno accettato il mio successo con una semplicità che mi fa ancora tenerezza. Ora è lei ad avere 2 figlie nel mondo dello spettacolo. Ne è contento? Ho lasciato che scegliessero. I primi tempi che stavano in scena con me ero molto imbarazzato, mi sentivo nudo. Forse perché mi vedevano nell'intimità del mio rapporto con il pubblico. Comunque, penso di essere stato un buon padre.